La follia. È la follia. E questa è la follia. E questa è la follia. È la follia. Correte forte, ascensionare, digitare, celebrare. Questa, questa è la follia. Questa è la follia. Questa è la follia. Lentamente ti pervade e ti fa sua, e questa è la follia che in progressione musicale ti porta via, che questa è la follia che non lo scende mai risale,